oltre Tevere, Vaticano e dintorni. Di Katia Caramelli e Don Willy Volonté. Una buona giornata da Katia Caramelli. Le vacanze per molti sono alle porte e oggi vogliamo parlarvi di viaggi particolari come lo sono i pellegrinaggi. La verità è che siamo tutti pellegrini in cerca di una risposta alla nostra inquietudine. Così padre Cesare Atuire, amministratore delegato dell'Opera Romana Pellegrinaggi, nel suo nuovo libro Il viaggio della vita, lo abbiamo intervistato. Ognuno di noi entra in questo mondo in un punto, in un viaggio magari verso una destinazione che non conosce, ma alla fine anche usciamo da questo mondo, siamo dei viaggiatori. E quando uno vive un'esperienza di pellegrinaggio, vive in un modo concentrato, quello che è la metafora della propria vita. E siccome tutti, anche durante questo nostro viaggiare, siamo sempre alla ricerca di diverse risposte, di bellezza, di amore, di spiritualità, il pellegrinaggio diventa quasi un riassunto della nostra esistenza. Poi non è un fatto che si limita alla tradizione cristiana. In tutte le grandi religioni c'è una tradizione di pellegrinaggi, basta pensare ai musulmani che vanno alla Mecca. Oggi quello che noi vediamo all'Opera Romana Pellegrinaggi sono anche nuove persone che stanno cercando dei nuovi orizzonti, pertanto il pellegrinaggio non è solo, diciamo, delle persone che vanno a messa la domenica, ma le persone che stanno cercando nuovi punti di riferimento, un po' di senso a questa vita, che spesso vengono da noi per chiedere di andare a Santiago di Compostela o di andare in Terra Santa o anche verso uno dei santuari mariani come Lourdes. Il senso lo si trova e delle volte anche lo si trova in modo inaspettato, perché il pellegrinaggio è un cammino e il cammino è il luogo dell'incontro. Questo incontro può avvenire tramite le persone che uno incontra, tramite anche il contatto con la natura stessa e soprattutto anche tramite il contatto con questi luoghi dove in qualche modo Dio ha lasciato un segno importante. Perché i luoghi santi sono luoghi dove uno sente la presenza di Dio in modo forte. Lo avete sentito, tra le mete più frequentate dai pellegrini sicuramente c'è il santuario di Lourdes. Gianfilippo Lunghi, volontario Unitalsi, racconta la sua esperienza. Sono stato a Lourdes quando avevo 14 anni, ho fatto questa scelta per curiosità, fin fine, perché partivano degli amici dalla parrocchia e si effettivamente domandavano e mi hanno detto stiamo andando a Lourdes, con una gioia infinita, un sorriso sulla faccia, e allora a quel punto ho detto no, devo partire anch'io. La prima volta sono partito per curiosità e poi rapito da tutto quello che è stato il pellegrinaggio. Lei è partito per curiosità e poi che cosa ha trovato? Io ho trovato praticamente un mondo di festa, di gioia, al contrario di tutto quello che si può pensare quando si va in pellegrinaggio. Già dal momento in cui si arriva in stazione Ostiense c'è un'atmosfera straordinaria, una gioia, una felicità, una voglia di andare in questo posto che veramente poi risulta magico. Sono un volontario, quindi tutto quello che necessita per i nostri amici, non esistono turni se non per mangiare, tra virgolette, in modo tale che tutto possa essere a necessità appunto di chi ha bisogno. Spesso capita di sentire che nessuno chiede la propria guarigione, no? Si prega per l'altro, anche magari chi ha appena conosciuto sul treno. Termina qui questa stagione di Oltretevere. Da Katia Caramelli l'augurio di una buona estate. Vi lascio a Don Willy Volonté. Il mese scorso l'Università di Trieste si è tenuta la presentazione del secondo volume di Papa Benedetto Gesù di Nazareth. Il pubblico universitario, attentissimo, era molto interessato all'argomentare del cardinale Ratzinger. Ora la libreria editrice Vaticana ha editato in un unico volume le presentazioni di Gesù di Nazareth che si fecero in 10 atenei italiani. Il segretario di Benedetto XVI, Monsignor Georg Geschwein, ne ha curata la prefazione. Chi meglio di lui conosce il Papa nel suo intimo? Era un uomo scomodo, afferma il segretario, quando il teologo Ratzinger era prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede. senza tanto discutere aveva preso su di sé un giogo pesante. Ma chi è in realtà l'uomo Ratzinger? Divenuto Papa Ratzinger, ha dovuto forse cambiare la propria natura? La parola provvidenza viene spesso utilizzata da Benedetto XVI. Il mio unico programma di governo, scrive il suo segretario riportando le parole stesse del Papa, è quello di non fare la mia volontà, di non perseguire le mie idee, ma di mettermi in ascolto con tutta la Chiesa della volontà del Signore. Occorre avere un bel coraggio, quasi profetico, per affermare oggi che l'uomo trova la sua piena soddisfazione nella fede. Sembra essere una provocazione con la stessa temerarietà usata da Gesù quando disse ai suoi interlocutori: «Senza di me non potete fare nulla». Benedetto XVI non ha paura del confronto, che per lui possiede sempre la mite fortezza del dialogo. Chiama per nome le insufficienze e gli errori dell'Occidente, critica la violenza che pretende di avere una giustificazione religiosa. Al centro del suo pensiero, continua il segretario del Papa, sta la questione tra fede e ragione, tra verità e libertà, religione e dignità dell'uomo. Insomma, la fede regala gioia, anche quando il suo procedere si rivela drammatico. Ma come disse Gesù con una ulteriore provocazione, la vittoria che ha vinto il mondo è la vostra fede.